per il resto dei tuoi giorni, perché forse ci sarò. Posso dirti adesso ti amerò, dopo non lo so. Il futuro è già un passato, lo ricorderò. Scattiamoci una foto, il resto ci pensiamo dopo. Il nostro un canto di guerra d'amore, come l'Iliade non vede il riflesso di un sogno mio. Per questa una storia la narro in poesia, come Calliope senza un freno. Anche se immobile come una sfinge, non mi bevo bugie, sono astemio, odio chi finge. E dopo questi anni non dimenticarti, io sono ancora qua. Chi l'avrebbe detto, piantiamo le radici, la tua bellezza è un albero da curare. E prenderò il tuo cuore con me, eppure non esiste un perché. Siamo solo il frutto di un destino che non puoi cambiare, che non cambierà. Volerò se volerai, ti amerò se mi amerai, ed è solo con un noi che nascono gli eroi. Volerò se volerai, ti amerò se mi amerai, ed è solo con un noi che nascono gli eroi. Quanto è grande questa terra, sembra un cinema, solo che proietta la realtà più nitida. Non ti dicono sbagliare, devi viverla, solo con l'errore puoi conoscere la verità. Girati verso di me, io sono qua. Non sei tu che guardi la natura, ma lei che guarda te. Questa luna, anche se splendente, resta sempre sole. Non cambia se cambi prospettiva. E dopo questi anni, non dimenticarti, io sono ancora qua. Chi l'avrebbe detto, piantiamo le radici, la tua bellezza è un albero da curare. E prenderò il tuo cuore con me, eppure non esiste un perché. Siamo solo il frutto di un destino che non puoi cambiare, che non cambierà. Volerò se volerai, ti amerò se mi amerai, ed è solo con un noi che nascono gli eroi. Volerò se volerai, ti amerò se mi amerai, ed è solo con un noi che nascono gli eroi. Cuore con me, eppure non esiste un perché. Siamo solo il frutto di un destino che non puoi cambiare.